È probabile che la gente li prendesse per due matti, perché non pensavano affatto a fermare un omnibus e proseguivano per la loro via senza fretta, senza accorgersi della notte che cadeva e della nebbia succeduta alla pioggia, ma che importava a loro ciò che pensava la gente? E si vivevano quell'ora felice che a pochi è concessa più di una volta nella vita, quel momento magico che dona la gioventù ai vecchi, la bellezza ai brutti, la ricchezza ai poveri e che dà al cuore umano un saggio anticipato del paradiso. Il professore si sarebbe detto che avesse conquistato un reame e che il mondo non avesse più nulla da offrirgli in fatto di beatitudini. Joe gli camminava al fianco faticosamente, ma come se il suo posto nella vita fosse stato sempre quello, e domandandosi come mai aveva potuto pensare a un destino diverso. Il primo che parlò fu lui, che parlò in modo intelligibile, vogliamo dire, perché le esclamazioni che tennero dietro al sì impetuoso di Joe non furono coerenti né articolate. Federico, perché non avete... Ah, Himmel! Mi chiama col mio nome, è la prima volta da quando Mina è morta. Egli esclamò, fermandosi a guardarla, a ringraziarla con gli occhi rapiti e coi piedi in mezzo a una pozzanghera. Quando vi parlo e voi non ci siete, vi chiamo sempre a quel modo. Ma se vi dispiace, non lo farò più. Dispiacermi? Non so dirvi la gioia che mi dà. Dammi anche del tu e dirò che la tua lingua è quasi bella quanto la mia. E non è un po' sentimentale il tu? Domandò Joe, ma invece dentro di sé pensava che è un monosillabo delizioso. Sentimentale? Sicuro che lo è. Grazie a Dio noi tedeschi ci crediamo al sentimento e ci manteniamo giovani per mezzo di esso. Il vostro voi è tanto freddo. Dammi del tu, Diletta, del mio cuore. Sapessi quanto vuol dire per me. Supplicava Baer, più da studente romantico che da professore solenne. Ma allora perché tutte queste cose non me le hai dette prima? Gli chiese Joe esitante. Ah, tu adesso vuoi che ti mostri tutto il mio cuore? Lo farò volentieri, perché d'ora in avanti il mio cuore è affidato a te. Dunque, Joe, ah, che nome curioso e grazioso, Joe. Dunque, Joe, la tentazione di parlare l'ho avuta fin da quel giorno che ci siamo detti addio a New York, ma credevo che il tuo bell'amico fosse il tuo fidanzato, e perciò non parlai. Mi avresti detto di sì se avessi parlato allora? Non so. Temo di no, in quel momento non l'avevo il cuore. Tu, non dirlo nemmeno per ridere, il tuo cuore era addormentato nel bosco finché è giunto il principe grazioso e lo ha destato. Meglio così, die erste Liebe ist die beste. Ma io non avevo il diritto di supporlo. Sì, il primo amore è il più bello, hai ragione. Rallegrati perché non ne ho avuti altri. Teddy non era che un romanzo. Ha avuto lui un capriccio per me e gli è passato presto. Joe ci teneva a mettere le cose a posto. Oh cielo, dunque io sarò proprio felice, tu sei tutta per me. Sai, a forza di aspettare sono divenuto un vecchio egoista, te ne accorgerai, mia cara professorin. Ne sono ben lieta, esclamò Joe, contenta dell'appellativo. Adesso dimmi, cos'è che ti ha fatto venire da me proprio nel momento che l'anima mia ti chiamava più forte? Questo, disse Baer, traendo dalla tasca del panciotto un foglietto di carta spiegazzato e consunto. Joe lo aperse e rimase tutta confusa. Era una delle sue poesie ritagliate da un giornale. Ma com'è possibile che questa roba? Domandò stupita. Mi è capitata sott'occhio per caso. Ho riconosciuto le iniziali con cui è firmata. E poi c'è una strofa che mi ha colpito. Leggi, vedi qual è. E intanto io cercherò di non farti mettere i piedi nell'acqua. Joe lo aperse e rimase tutta confusa. Era una delle sue poesie soffitta. Parlavano di quelle quattro cassette che i lettori conoscono, in cui dormivano i ricordi dell'infanzia e della fanciullezza delle quattro sorelle, e facevano poeticamente un rapido inventario del contenuto di ciascuna, concludendo, per quelle di Joe, con un lamento per la giovinezza che tramontava senza amore. E l'ultima strofa diceva: «Sii degna dell'amore e a te verrà. Sul declinare dell'età verde, ma passano gli anni della gioventù e ormai quasi non l'aspetto più. I versi non valgono nulla, osservò Joe camminando al fianco del professore, ma quando li ho scritti li sentivo. Fu in un giorno che ero tanto sola e mi ero andata a sfogare con un buon pianterello seduta lassù sul sacco degli stracci. Non avrei immaginato che la poesia uscisse dalla mia cassetta a raccontare i fatti miei al mondo. E così dicendo, Joe toglieva il prezioso foglietto dalle mani di Baer e lo faceva a pezzettini. Buon viaggio, disse Baer, sorridendo ai pezzettini di carta che Joe lasciava cadere ad ogni passo. Il tuo dovere l'hai fatto e io avrò l'originale. Sicuro, riprese poi. Quando l'ho letto, ho detto fra me: ella ha una pena e si sente sola. Che conforto sarebbe per lei un amore sincero? E io l'amo tanto. Perché non dovrei correre da lei e dirle: se il dono che ti porto non è troppo poco per quello che oso chiederti in cambio, accettalo. E così sei venuto. E hai trovato che non è troppo poco, che anzi è una cosa preziosa, la sola al mondo che io sognavo, bisbigliò Joe. Sulle prime non ebbi il coraggio nemmeno di sperarlo, per quanto la tua buona accoglienza mi riempisse il cuore di una gioia celeste, ma poi cominciai a sperare e dissi: sarà mia anche a costo della vita. Queste ultime parole il professore le disse a voce alta e in tono di sfida, come se la nebbia che ora li avvolgeva fosse una barriera da superare o da abbattere. E Joe trovò bellissimi quel gesto e quel tono, e risolvé di essere degna del suo cavaliere, anche se non si presentava, caracollando sopra un focoso destriero e coperto di ricca armatura. Ma perché hai aspettato tanto? Gli chiese dopo un breve silenzio. Fargli delle domande così, e aspettare la risposta pregustando nella dolcezza le dava un piacere tale che ella non resisteva alla tentazione. Non è stato facile, ma io non potevo in coscienza portarti via dal tuo dolce rifugio se non ero sicura di avere una casa da offrirti. A costo forse di lunga attesa e di dura fatica, con che cuore ti potevo chiedere di lasciare ciò che avresti lasciato per un povero vecchio che non possiede altro che un po' di istruzione? Sono contenta che tu sei povero. Un marito ricco non lo sopporterei, esclamò Joe senza esitare, e poi aggiunse in tono più pacato: non avere timore della povertà per me. La conosco da tanto tempo che non la temo più. So come si può essere felici lavorando per chi si ama. E non dire che sei vecchio. Joe non ci ha mai pensato. Ti amerei e non potrei fare altrimenti, anche se tu avessi 70 anni. Il professore fu tanto commosso da queste parole che avrebbe volentieri tirato fuori il fazzoletto. Ma aveva le braccia occupate, gli occhi glieli asciugò Joe, e poi gli tolse dalle mani un pacco o due e disse ridendo: sarò un'ostinata, ma in questo momento non mi si potrà certo dire che sono fuori della mia sfera, perché la missione della donna è, dicono tutti, di asciugare le lacrime e portar fardelli. E io voglio portare la mia parte, Federico, e aiutarti a guadagnarla la casa. Mettitelo bene in mente fin d'ora, se no ti lascio. Ella concluse irrisoluta mentre egli faceva l'atto di voler riprendere tutto il peso. Vedremo, Joe. Hai la pazienza di aspettare a lungo tu? Perché bisogna che cominci col lavorare da solo, per i bambini. Nemmeno per te mancherei alla parola che ho dato a Minna. Puoi tu perdonarmelo e vivere tranquilla, sperando e aspettando? Sì, sono certa che ci riuscirò, perché noi ci amiamo e questo rende sopportabile tutto il resto. Anche io ho il mio dovere, il mio lavoro da compiere e non potrei essere contenta se li trascurassi, fosse anche per te. Sicché non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo essere impazienti. Tu farai la tua parte là, nell'Occidente, e io farò la mia qui. E tutti e due vivremo felici aspettando il meglio e lasciando la cura dell'avvenire al divino, confidando. Ah, quanta speranza mi dai e quanto coraggio! E io non ho da darti in cambio che il mio cuore pieno d'amore e queste mani vuote, esclamò il professore avvilito. Era destino che Joe non dovesse mai imparare a comportarsi come si deve. Giunta, mentre Baer parlava sui gradini di casa, gli prese le mani, dicendogli con tenerezza: vuote no in questo momento. E si chinò a baciarlo sotto l'ombrello. Cosa sconvenientissima, ma lei l'avrebbe fatto anche se invece di quel branco di passeri sulla siepe ci fossero state altrettante creature umane. Ormai se ne infischiava di tutto, Joe, meno che della sua felicità. Era giunta in modo tanto semplice, ma ciò non toglieva che quello fosse per ambedue il momento più bello della vita. Il momento in cui, voltando le spalle alla notte che era discesa, alla nebbia, alle tenebre di fuori, ed entrando nella sua casa, Joe si trasse accanto al suo fidanzato nella luce, nel tepore e nella pace che li aspettava per dar loro il benvenuto fra le care fide pareti. Capitolo 24. Il raccolto. Per un anno Joe e il suo professore lavorarono e aspettarono, sperarono e si amarono. Si videro ogni tanto e si scrissero delle lettere così voluminose che secondo loro si dovette ad essere in caro della carta. Il secondo anno di attesa non cominciò molto più allegro. Morì all'improvviso la zia March. Passato un po' il dolore, perché volevano bene alla vecchia signora, nonostante la sua lingua pungente. Videro che avevano motivo anche di rallegrarsi, perché nel suo testamento ella aveva lasciato alla nipote Jo la proprietà di Plumfield e la metteva in grado di fare tante belle cose. «È una bella proprietà, ne ricaverai una bella somma», disse Lori a Jo qualche settimana dopo, nel parlare dei disegni di lei per l'avvenire. Egli naturalmente immaginava che Jo la volesse vendere. «Non ho nessuna intenzione di venderla», disse lei ben decisa, accarezzando il vecchio botolo grasso che aveva adottato per un riguardo alla memoria della zia. «Non vorrai mica abitarci, eh?» «Ma sì! Ma cara mia, la casa è immensa e ci vorrà una spesa enorme per tenerla in ordine. Due o tre uomini per il giardino e il frutteto, e non credo che Baer se la sentirà di fare il proprietario rurale. Ci si proverà se glielo dico io. E contereste di vivere dei prodotti del terreno? A parole pare magnifico, ma vedrete che lavoro da disperati. Il raccolto che ne trarremo sarà assai ricco», disse Joe ridendo. «E in che consisterà questo prezioso raccolto, cara signora?» «Ragazzi, aprirò un collegio per maschietti, un buon collegio, modesto, che sarà come una famiglia. Io baderò ai ragazzi e Fritz insegnerà. Oh, ecco un vero progetto degno di Joe, ce la ritrovo tutta!» esclamò Teddy rivolto alla famiglia che appariva sorpresa quanto lui. «Mi piace!» disse la signora March subito. «Anche a me!» disse il marito, a cui sorrideva l'idea di avere l'occasione di sperimentare il suo metodo socratico con la gioventù moderna. «Sarà un gran pensiero per Joe», osservò Meg accarezzando la testa del suo unico maschietto che le dava tanto da fare. «Joe è capace di riuscirvi e di viverci felice. È un'idea magnifica. Spiegaci tutto», esclamò Mr. Lawrence, che aveva sempre avuto una gran voglia di offrire il suo aiuto ai due fidanzati, ma sapeva che lo avrebbero rifiutato. «Ero sicura che voi, signor Lawrence, mi avreste approvata. Anche Amy approva, glielo vedo negli occhi, ma prudentemente vuole riflettere un po' prima di parlare. Dunque, miei cari», riprese Joe affrontando l'argomento di proposito, «sappiate che non è una mia idea nuova, ma un disegno che accarezzavo da lungo tempo. Prima che venisse il mio Fritz, io pensavo che il giorno che avessi fatto fortuna e nessuno qui avesse più avuto bisogno di me, io avrei preso in affitto una casa un po' grande per accogliervi un certo numero di ragazzi poveri, senza nessuno, senza madre, e occuparmi di loro per rendere un po' serena la loro vita. Ne vedo tanti che vengono su male e si guastano perché non hanno chi li assiste, chi li guida nel momento in cui ne hanno più bisogno. E mi sorride tanto l'idea di fare qualcosa per essi che sento vivamente ciò che loro manca, quello che li fa soffrire, e mi piacerebbe tanto far loro da madre». La signora March le tese la mano e Joe la tenne entro la sua sorridendo con le lacrime agli occhi. E riprese a parlare con quel calore, quell'entusiasmo che da tanto tempo non si osservava più in lei. Esposi il mio disegno a Fritz un giorno, mi disse che era proprio la cosa che sarebbe piaciuta a lui. Stabilimmo che si sarebbe fatto l'esperimento quando si diventasse ricchi. Che sia benedetto il mio vecchio Fritz, lui non ha fatto altro per tutta la vita. Aiutare ragazzi poveri, voglio dire, non diventare ricco. Il denaro nelle tasche sue non ci sta mai abbastanza per poterlo mettere da parte. Ma adesso, grazie alla mia vecchia cara zia che mi voleva bene più di quanto meritassi, io ricca sono diventata, almeno secondo l'idea che ho io della ricchezza. Da Plumfield noi ne ricaveremo tanto da viverci benissimo, se la scuola andrà bene. È proprio il posto che ci vuole per i ragazzi. La casa è grande, il mobilio non è bello ma è solido, e c'è spazio per parecchie dozzine di convittori, e fuori è un'aria magnifica. Potranno dare una mano nel giardino e nel frutteto, lavoro sano. È vero, signor Lawrence? E Fritz potrà educarli, far loro scuola a suo modo. E il babbo l'aiuterà. Per nutrirli, tenerli in ordine, carezzarli e farli rigar dritto ci sono io. E la mamma mi starà vicino. Ho sempre desiderato di averne tanti di ragazzi. Non ne ho mai avuti abbastanza. Così ne avrò la casa piena. E me li godrò finché vorrò. Ma pensate un po' che bellezza. Padrona di Plumfield e con un branco di ragazzi a goderselo con me. Joe levò le braccia con un sospiro di soddisfazione. Tutti ridevano con lei. Specialmente il signor Lawrence, tanto che temettero per lui un qualche disturbo. «Non ci vedo niente da ridere», rispose Jory, facendosi seria appena poté farsi udire. «Cosa c'è di più naturale per mio marito, che è professore, di tenere una scuola, e per me che sono proprietaria di voler risiedere nella mia proprietà?» «Senti che arie», disse Lori, che considerava l'idea come un bello scherzo e nient'altro. Ma la signora Joe mi permetta solo una domanda. Come vuole tirare avanti un convitto se i convittori sono tanti straccioncelli? Con che profitti li manterrà? Teddy, adesso non cominciare con le docce fredde. Si capisce che avrò anche gli alunni ricchi. Forse da principio avrò quelli soli e dopo, una volta avviata, prenderò uno straccioncello o due tanto per cominciare. I figli dei ricchi, anche loro, molte volte hanno bisogno di cure e di premure, tale e quale come quegli altri. Ne ho visti tanti di quei poveri piccini lasciati in mano alla servitù e di quelli senza ingegno obbligati per forza a studiare, che è una vera crudeltà. E ci sono quelli che vengono su discoli perché mal diretti e trascurati, e poi quelli che hanno perduto la mamma. E del resto, anche i migliori soggetti bisogna che superino l'età ingrata, immatura, e quello è il momento che ci vuole pazienza e bontà. La gente ne ride di quei poveri ragazzi e se ne disinteressa volentieri. Li lascia da una parte e poi pretende che da un giorno all'altro dal bimbo grazioso sbocci un bel giovinetto. Non si lamentano mica tanto. Sono coraggiosi i piccini, ma certe cose le sentono. Io ne ho visti più d'uno e so cosa accade. Quei giovani orsi male lisciati mi interessano in modo speciale. Mi piace far sentire loro che io lo vedo, il piccolo cuore caldo, onesto, bene intenzionato che c'è sotto le apparenze poco promettenti, malgrado gli zamponi senza grazia e i testoni timidi, vergognosi e ottenebrati. Di queste cose ho esperienza io. Per Diana non è forse vero che ho tirato su un ragazzo che è divenuto l'orgoglio e l'onore della sua famiglia? Posso attestare che hai fatto di tutto per riuscirci, le disse Lori con un'occhiata riconoscente. E sono riuscita al di là di quanto speravo, perché adesso eccoti qua, uomo d'affari, pronto, intelligente, che fai tanto bene col tuo denaro, e invece dei dollari accumuli le benedizioni dei poveri che aiuti. Ma non sei soltanto uomo d'affari, hai anche l'amore per le cose buone e belle, e le godi tu e ne lasci godere agli altri, come hai fatto sempre. Io sono orgogliosa di te, caro Teddy, perché tu diventi sempre migliore, e tutti quanti lo sentono, sebbene tu non ami che lo si dica. Sicuro, quando l'avrò il mio gregge, ti mostrerò loro ad esempio e dirò: quello è il vostro modello, figliuoli. Il povero Lori non sapeva da che parte guardare, perché anche adesso che era uomo fatto, aveva sempre un po' della timidezza di una volta, e con quelle lodi sperticate gli occhi di tutti erano su di lui. Senti, Joe, questo mi pare un po' troppo. E così dicendo, posò dolcemente una mano sulla testa canuta del nonno e l'altra su quella bionda di Amy, le due persone che non si vedevano mai troppo lontane da lui. Io credo che la famiglia sia la più bella cosa del mondo, proclamò Joe, che quel giorno si trovava in uno stato di esaltazione. Quando ne avrò una io, spero che sarà felice come queste tre, che più delle altre conosco e amo. Se fossero qui John e il mio Fritz, sarebbe il paradiso completo, concluse, senza scherzare. Quello fu in complesso un anno mirabile, perché gli avvenimenti lieti si succedettero rapidamente. In un batter d'occhio Joe si trovò maritata e stabilita a Plumfield, poi subito le nacque dalla sera al mattino, come i funghi, una famiglia di 6 o 7 ragazzi che crebbe e si moltiplicò in modo sorprendente. Poveri e ricchi, perché il signor Lawrence scovava sempre qualche caso pietoso di famiglia povera e si raccomandava al buon cuore dei Byer, che accettavano il ragazzo dietro pagamento di una retta modesta versata di gran cuore da lui stesso, Lawrence. Così il vecchio astuto amico riusciva a farla Joe, fornendole il materiale che più l'appassionava. Non diventò mai un convitto alla moda, il professore non si fece una fortuna, ma fu proprio quello che Joe intendeva: un luogo di felicità, una famiglia per ragazzi che avessero bisogno di cure, di scuola e di bontà. Tutte le numerose camere furono in breve occupate. Ciascuno dei piccoli appezzamenti di terra ebbe tosto il suo piccolo coltivatore. Un vero giardino zoologico sorse là dentro, coi suoi praticelli e le casucce, perché era permesso tenere qualche animale. E 3 volte al giorno Joe sorrideva al suo Fritz, da un estremo all'altro di una lunga tavolata, fra 2 file di giovani facce contente, tutte volte a lei con uno sguardo affettuoso, con una parola familiare, col cuore pieno di riconoscenza per la mamma Baer. Ora ne aveva finché voleva di ragazzi e non se ne stancava mai. Col passare degli anni, 2 piccini vennero a fare la più grande felicità di Joe: Bob, battezzato col nome del nonno, e Teddy, un bimbo contento e ottimista in cui pareva essersi fuso il carattere sereno del padre con lo spirito vivace della madre. Come riuscivano a vivere e a crescere in quella baraonda di Monelli era un mistero per la nonna e per le zie. Ma il fatto è che venivano su come fiori selvaggi a primavera e che le bambinaie, ossia i compagni, pur senza moine, volevano loro bene e li educavano egregiamente. A Plainfield si facevano molte feste e una delle più belle era la raccolta annuale delle mele perché vi intervenivano tutte al completo le quattro famiglie e durava fino a sera. 5 anni erano passati dal matrimonio di Joe e la festa delle mele fu celebrata in una mite giornata di ottobre, con un'aria fresca e pura che faceva correre più vivo il sangue nelle vene. Il vecchio frutteto era vestito da festa, le sterie d'oro coronavano la muraglia muscosa. Saltavano vivaci gli acridi nell'erba già un po' secca, trillavano i grilli, gli scoiattoli si davano da fare per il loro piccolo raccolto e gli uccelli cinguettavano i loro addii agli ontani. I meli erano pronti alla prima scossa per deporre la loro pioggia di pomi rossi e dorati e tutti ridevano o cantavano. Mr. March andava attorno ridendo placidamente e citando Tasser, Coley e Columella a Mr. Lawrence. E gustando della mela gentile e lieto succo. Il professore galoppava su e giù per i grandi viali come un prode cavaliere teutonico, con una stanga come asta, guidando la schiera dei ragazzi scalatori che capitombolavano allegramente da altezze varie. Lori si occupava dei più piccoli, portava in giro la sua bambina entro un canestro da un bushel, sollevava Daisy fino ai nidi e impediva a Bob, audace e avventuroso, di rompersi il collo. Mrs. March e Meg sedevano fra i mucchi delle mele come due pomone e separavano le varie specie man mano che affluivano, mentre Amy, con una bella espressione materna diffusa nel volto, schizzava nell'album i diversi gruppi e teneva d'occhio una bimba pallida che sedeva in adorazione davanti alla madre, con una piccola gruccia accanto. Joe quel giorno era proprio nel suo elemento e correva da ogni parte con la gonna tenuta su da spilli, pronta ad ogni avventura interessante che capitasse. Il piccolo Teddy era protetto da un incantesimo, non gli accadeva mai nulla e Joe non si preoccupava affatto se un altro ragazzo lo tirava su per un albero, oppure galoppava con Teddy sulle spalle, o se il papà indulgente gli dava una piccola mela ruggine in omaggio alla falsa idea dei tedeschi che un bambino digerisce qualunque cosa, cavoli in salamoia, bottoni, chiodi e anche le proprie scarpine. Ella sapeva che il piccolo Ted ne veniva sempre fuori in tempo, salvo e roseo, col volto sudicio e sereno, e lo accoglieva sempre con un bentornato di cuore. Joe i suoi bambini li amava teneramente. Alle 4 del pomeriggio la raccolta era finita. I canestri rimasero vuoti e inattivi e i raccoglitori delle mele si riposarono, mostrandosi a vicenda strappi e ammaccature. Quindi Joe e Meg, con una squadra di ragazzi più grandi, prepararono per la cena sull'erba, perché il tè all'aria aperta era sempre il coronamento della giornata. In terra riviveva allora l'età dell'oro, perché i ragazzi, liberi di sedersi dove volevano e di prendere ciò che preferivano, spargevano latte e miele per tutto il terreno. La libertà per i ragazzi è il condimento migliore, e quel giorno se ne avvalevano in tutta l'estensione del termine. Alcuni tentavano il divertente esperimento di bere il latte, tenendo la testa per terra e i piedi in aria. Altri giocavano alla cavallina, divorando fette di torta negli intervalli. I raccoglitori di mele si appollaiavano sugli alberi come uccelli di nuovo genere. Le bambine formavano un circolo a parte e Ted girava fra le vettovaglie servendosi a piacere. Quando tutti ebbero mangiato, il professore propose il primo brindisi ufficiale che si faceva in quelle occasioni alla zia March, che il cielo l'abbia con sé. Era un brindisi che partiva proprio dal cuore di quel galantuomo che non dimenticava mai quanto le doveva. A lui rispondevano composti tutti i ragazzi del convitto, ai quali la memoria della zia veniva sempre ricordata. Adesso, ai 70 anni della nonna, augurandole lunga vita 3 volte. Questa formula aveva uno scopo, come potete ben credere, perché una volta cominciate le acclamazioni era difficile fermarle. Seguivano i brindisi per tutti, dal signor Lawrence, considerato come speciale patrono del convitto, fino al porcellino d'India sperduto che si era allontanato dal suo alloggio per venire a cercare il padroncino. Demi, come il più grande dei nipoti, presentava alla regina della festa i vari doni, così numerosi che venivano portati con una carriola. Talvolta, certe cose che in un altro caso sarebbero parse poco convenienti erano accettate con entusiasmo dalla nonna. Tutti i doni erano proprio opera dei donatori. Ogni punto dato dall'editina a pazienti di Daisy sull'orlo di quei fazzoletti valeva per la nonna più che un ricamo perfetto. La cassetta per le scarpe di Demi era un miracolo di meccanica, sebbene il coperchio non volesse chiudersi, Il posapiedi di Bob zoppicava sulle gambe ineguali, ma la nonna dichiarava che appunto per questo era molto riposante. E non c'era pagina del ricco volume offerto dalla bimba di Amy che fosse bella per la nonna quanto quella in cui si leggevano, in maiuscole molto irregolari, le parole alla cara nonna, la sua piccola Beth. Durante la cerimonia i ragazzi erano misteriosamente spariti e mentre la signora March voleva ringraziare i suoi nipotini e non ci riusciva per la commozione, e Teddy le asciugava le lacrime col proprio grembiule, d'un tratto il professor Byers si mise a cantare. Allora, al di sopra della sua testa, una voce dopo l'altra ripresero il motivo, e d'albero in albero echeggiò la musica del coro invisibile. Cantavano con tutta l'anima una canzoncina su parole di Joe e musica di Teddy. Il professore aveva loro insegnato a renderla con bell'effetto. Era una novità ed ebbe grande successo. La signora March non si riaveva dalla bella sorpresa e volle stringere la mano ad uno a quegli uccelli senza penne, da Franz a Emil, che erano grandicelli, alla piccola mulatta che aveva la voce più dolce di tutti. E infine i ragazzi si dispersero per la gazzarra finale, lasciando la signora March e le figlie sotto l'albero della festa. Non credo di avere più diritto di chiamarmi la povera Jo. Ora il mio desiderio più vivo è soddisfatto, disse la signora Baer, tirando fuori le manine di Teddy dal boccale del latte nel quale stavano frullando di gusto coi pugni chiusi. Eppure, la tua vita è molto differente da quella che immaginavi. Ti ricordi i nostri castelli in aria? Le disse Amy, sorridendo e guardando Lori e John che giocavano a cricket con i ragazzi. Guardali, esclamò Joe col tono materno che ora aveva sempre di chiunque parlasse. Non fa piacere al cuore vedere come scordano le loro faccende e per un giorno si stanno a divertire. I castelli in aria di quella volta, dicevi? Sì, me li ricordo, ma l'ideale di vita che sognavo allora, a guardarlo adesso mi sembra egoista, solitario e freddo. Alla speranza di scrivere un buon libro non ci ho rinunciato mai, ma posso aspettare e son certa che riuscirà anche meglio dopo queste esperienze e queste osservazioni. E Joe indica i suoi vispi ragazzi laggiù, suo padre col professore che passeggiano a braccetto nel sole, tutti presi da una di quelle conversazioni che a entrambi piacciono tanto. Più vicina a sua madre, seduta in trono tra le figlie coi nipoti in grembo e ai piedi, che la guardano come se non sapessero dove cercare aiuto e felicità, se non in quel vecchio volto ormai rugoso, che per loro non diventa mai vecchio. Io, dice Meg, al mio sogno ci sono andata più vicina di tutte. Sognavo splendori, è vero, ma in cuor mio sentivo che mi sarei accontentata di una casetta, di John e di qualche caro bimbo come questi che ho. Io ho avuto tutto, grazie a Dio, e sono la donna più felice del mondo. E Meg posava la mano sul capo del suo figliuolo ormai cresciuto e aveva il volto pieno di gioia, di tenerezza e di gratitudine. Il mio castello, dice Amy, è assai differente da quello che sognavo, ma non cambierei. Al pari di Joe, nemmeno io ho rinunciato del tutto alle mie speranze d'artista e non mi accontento di aiutare gli altri a realizzare i loro sogni di bellezza. Ho incominciato a modellare una figura di bimba e Lori dice che è la cosa migliore che ho fatto. Ne sono persuasa anch'io e la farò in marmo e così, qualunque cosa accada, mi resterà sempre l'immagine del mio angioletto. Mentre mi parlava, una lacrima cadde sui capelli d'oro della bimba che dormiva fra le sue braccia. L'unica sua creatura adorata. Era un piccolo essere fragile e il timore di perderla era l'ombra sopra il sole della sua vita. Una croce per ambedue i genitori, un amore e un dolore che li legano più stretti. Il carattere di Amy si faceva ogni giorno più dolce, più serio e più tenero. Anche Lori era più uomo, più forte, più saldo. Ambedue imparavano che né bellezza, né gioventù, né ricchezza e neanche l'amore bastano a tenere lontane le preoccupazioni, le sventure e le tribolazioni, perché ogni vita deve avere la sua pena e qualche giornata di pioggia ci deve pur essere. Ora va meglio, l'assicurò la mamma. Ne sono sicura, non disperare, cara. Spera sempre e cerca di vivere felice. Daisy, la tenera cuginetta, inginocchiata accanto alla piccina, premeva la guancia rosea contro quel povero visetto pallido. Disperare? Mai finché ho te, mamma, a tenermi su e Lori a sopportare più della metà di tutti i pesi, rispose Amy con calore. Lui non vuole mai che io veda la sua preoccupazione ed è tanto dolce e paziente con me, tanto pieno di premure per Beth. È un sostegno e un conforto tale che io sento di non amarlo mai abbastanza. E così, Malgrado la mia croce pesante ma unica, posso anch'io ringraziare Dio e dire che sono felice. Oh, quanto a me non c'è bisogno che lo dica. Io ho avuto più di quello che merito, disse Joe con un'occhiata al suo buon marito e ai due floridi ragazzi che facevano capriole sull'erba ai piedi di lei. Fritz diventa grigio, ingrassa. Io mi faccio sottile come un'ombra e la trentina è passata. Ricchi non saremo mai. Un incendio ci può distruggere Plumfield dalla sera alla mattina, con quell'incorreggibile Tommy Banks che non vuole smettere di fumare i suoi sigari di felce secca sotto le coperte. E sono già 3 volte che dà fuoco al letto. Ma con tutti questi inconvenienti, io non mi lamento di nulla e in vita mia non sono mai stata contenta come ora. A vedermi invecchio, ma dentro mi sento sempre più simile al mio branco di figliuoli e qualche volta mi esprimo come loro. Sì, Joe, il premio che ti aspetta sarà bello, cominciò la signora March, mentre scacciava un grosso grillo nero che stava fermo davanti al piccolo Teddy e gli faceva paura. Meno del tuo, mamma. Guardiamoci intorno, in questo momento. Non potremo ringraziarti mai abbastanza per il tuo lavoro paziente di seminatrice e di mietitrice, esclamò Joe in uno di quegli slanci affettuosi che aveva sempre, che sempre avrebbe avuto anche da vecchia. Speriamo che ogni anno porti più frumento e meno erbacce, disse Amy con dolcezza. Un grande raccolto, mamma, aggiunse Meg, ma io so che nel tuo cuore c'è tanto posto. La vecchia mamma, nella sua commozione, non poté che stendere le braccia aperte, come per racchiudervi e stringersi al seno tutta la schiera delle figliuole, dei generi, dei nipoti. Pieno il volto e la voce di amore materno, di riconoscenza e di umiltà, ella disse: Bambine mie, per quanto felice possa essere la vostra vita, io non potrò mai augurarvi una felicità maggiore di quella che provo io in questo momento. Fine.